Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. L'appuntamento rimane rinnovato a domenica prossima, sempre con la medesima abile regia, che ringraziamo ovviamente anche in questa occasione, di Cristiano Valli. Buona giornata. E andate a mangiare in fretta, che sennò perdete la messa del Papa.